Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Caldiron Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Ciao Batta, hai sentito l'ultima canzone di Tiziano alla mia età? Sì, ma non è il mio genere. Perché? Cosa ascolti? Ma generalmente il rock, ma anche qualcosa di house. Anche a me piace l'house, ma il testo di questa canzone mi è piaciuto molto. Oh, invece di parlare di musica, pensate a studiare la poesia di Montale. Sì, figurati se noi studiamo anche. Abbiamo già troppo da fare. Tu l'hai studiato? Sì, certo, ignoranti. Almeno c'entra con il compito di lettere. Eccola qua, un'altra scuola che usa le nuove tecnologie per far studiare i ragazzi senza che rotolino loro le scatole dalla noia. Qui siamo alla scuola media Faloppio in provincia di Como. La settimana scorsa, forse qualcuno di voi l'avrà sentita, eravamo a Torino. I ragazzi usano il podcasting e si divertono a confrontare Montale con le canzoni che ascoltano abitualmente nell'iPod. Risultato: Chocolat 3.b, un podcast educativo fatto proprio dai ragazzi e cliccatissimo. E ancora buona scuola, perché ieri è stato consegnato il terzo premio delle buone pratiche di educazione alla sicurezza e alla salute promosso da Cittadinanza Attiva e dedicato a Vito Scafidi, il ragazzo, forse ricorderete, morto nel crollo in novembre del liceo Darwin di Rivoli. Ovviamente quest'anno, vista la cronaca abruzzese, l'attenzione si è concentrata molto sulla prevenzione dei crolli per il terremoto. È andata alla premiazione la nostra Paola Anania, ecco il suo racconto. Terremoti, la situazione nelle scuole da questo punto di vista non è rosea, come dimostra l'ultima iniziativa di Cittadinanza Attiva che ci spiega Adriana Bizzarri. Questa è una delle tante iniziative che facciamo sul terremoto da 5 anni col Dipartimento della Protezione Civile, e questa in particolare è un'indagine conoscitiva, peraltro sta andando benissimo, hanno risposto più di 5.000 studenti e più di 1.000 genitori, che diciamo fa capire quanto la percezione del rischio sismico in Italia sia assolutamente sottovalutata, sottopercepita dai cittadini e soprattutto dai cittadini del sud. E per esempio si è notato che i genitori quasi mai sanno qual è lo stato di sicurezza della scuola, ma addirittura della propria abitazione, e ovviamente ci siamo rivolti a famiglie e scuole in zone sismiche, quindi questo la dice lunga. Non essere preparati sul terremoto significa non essere neanche in grado di reagire nel caso in cui un evento come in Abruzzo dovesse capitare. Esatto, infatti quello che noi insegniamo a fare con queste iniziative è, da una parte, a guardarsi intorno, a percepire i segnali che dagli stabili, quindi segnali strutturali, possano, ovviamente letti da un cittadino comune, possano però dire e indicare lo stato di sofferenza di un edificio, sia la propria casa sia la scuola, quantomeno a segnalarlo a chi di dovere, ovviamente. E dall'altro, altrettanto importante, è capire come fronteggiare un'eventuale scossa sismica, ad esempio, no? Quindi cercando di adottare quei comportamenti che in tanti casi salvano la vita. Poca consapevolezza dunque dei rischi, ma anche ottime pratiche, come quella della scuola media Quarini di Riva presso Cheri nel torinese, che ha vinto il primo premio insieme ad una scuola piemontese di cui parleremo fra un attimo. Sentite qua che cosa si sono inventati alla scuola media Quarini. Ce lo spiega Walter Bianchi, insegnante di educazione musicale. Era un progetto che si basava tutto sulla formazione degli alunni, per cercare di creare dei ragazzi consapevoli in grado poi di, a loro volta, di formare dapprima i compagni e poi per espandere la sicurezza, il tema della sicurezza, anche a livello, diciamo, zonale, particolarmente relativo alla conoscenza dei comportamenti e degli atteggiamenti da assumere in caso di pericolo, e non solo, ma poi soprattutto saper individuare i possibili rischi all'interno di un ambiente, che può essere la scuola piuttosto che qualunque altro tipo di ambiente. Rischi per esempio strutturali, di crolli, tanto per capirci. Ad esempio rischi di carattere strutturale sicuramente, infatti è capitato più volte che alcuni ragazzi hanno notato dei pericoli che sono da questo punto di vista, ad esempio c'era una giornata di vento e il tetto della scuola si alzava perché era in lamiera o cose di questo tipo, piuttosto che mettere ad esempio dei segnali di divieto di sosta dietro delle porte che si aprivano all'interno, per cui qualche ragazzo rischiava di prenderselo sul naso quando qualcuno usciva all'improvviso. per cui hanno messo dei segnali, i segnali di divieto di sosta, tutte queste cose. Dalle cose più piccole a quelle più grandi. Certamente, certamente. Anche un lavoro sui terremoti avete fatto? Noi abbiamo parlato dei terremoti, anche se non è un particolare problema della zona dove noi viviamo, per fortuna, però comunque abbiamo parlato anche di questo, abbiamo fatto anche esercitazioni in merito a questa tematica, quindi appunto ad esempio come comportarsi in caso di terremoto, tipo cercare immediatamente un riparo sotto i banchi piuttosto che lungo i muri portanti della scuola, quindi abbiamo individuato quali sono i muri portanti della scuola, eccetera. Il progetto è andato avanti per quanto tempo? Il progetto non è ancora finito, nel senso che è iniziato con la formazione dei rappresentanti di classe in merito alla sicurezza. Quindi quali? Ogni classe ha un suo rappresentante, RAS si chiama? Esatto, perfettamente, così di RAS, che sono appunto i rappresentanti alunni sicurezza. Ce ne sono appunto 4 per classe. E una volta che questi hanno acquisito le informazioni, eccetera, loro si occupavano di trasmetterle ai loro compagni. A questo punto, quando tutta la scuola si era globalmente formata, abbiamo pensato di trasmettere queste informazioni al territorio. Quindi abbiamo fatto una conferenza stampa, così l'abbiamo chiamata, di sera, quindi non durante l'orario scolastico, all'amministrazione comunale del paese. I relatori erano proprio loro. Quindi erano questi rappresentanti degli studenti che si sono occupati di fare queste videopresentazioni comunicando le informazioni al sindaco piuttosto che all'assessore, eccetera. E qui abbiamo 2 alunni, uno di voi per caso è RAS? Tu sei RAS, qual è il compito di un RAS? Che significa responsabile? Alunni sicurezza è un compito, è tipo preservare libere le vie di fuga in caso di un'evacuazione, come per esempio notare delle crepe nei muri oppure un rialzamento. Anni hai, ti chiedo prima? 12. Tu riesci a stare attento a tutte queste cose? Sì, abbastanza, perché comunque magari le vedo mentre entro a scuola o cose così. E poi come funziona? Quando tu noti qualcosa che non va, che fai? Devo andarlo a riferire al professore, che poi se ne occuperà lui. I tuoi compagni come reagiscono al tuo ruolo? Ti guardano con diffidenza oppure ti danno ascolto? Certe volte all'inizio non mi ascoltavano, poi adesso però quando hanno sentito del fatto che sono crollate alcune scuole in Abruzzo, che hanno paura di queste cose, iniziano ad ascoltarci di più. Dal torinese al vicentino, premiato anche l'Istituto per l'Agricoltura e l'Ambiente Parolini di Bassano del Grappa. Qua terremoto e crolli non c'entrano, ma sentite quanto è interessante questo progetto. Giovanni Celi, insegnante di ecologia applicata. Ma noi abbiamo fatto un progetto che è legato ai campi elettromagnetici emessi da telefonia mobile, ossia dalle antenne, e poi abbiamo analizzato anche i cellulari, perché tutti ce l'abbiamo e magari non sappiamo esattamente cosa ci possono comportare. E abbiamo fatto qualcosa che possiamo dire legato anche un po' al sociale, nel senso che siccome era stata ubicata un'antenna, no, nei pressi di alcune scuole e un asilo, e allarmate le insegnanti avevano chiesto di spostarla, quindi è stata spostata in zona rurale, però non completamente, nel senso che erano rimasti dei ricettori e dei trasmettitori, però di linea diretta, cioè che passavano solo dei segnali all'altra antenna. Ovviamente questo lo dicevano quelli delle compagnie telefoniche, però le maestre ancora non si fidavano. Quindi ci siamo fatti dare l'apposita strumentazione, perché io avevo un po' di esperienza in campo, e siamo andati a rilevare questo, e i dati fortunatamente erano confortanti. Quindi voi avete verificato che non ci fossero rischi sì, per la salute? Fossero, cioè, infatti i dati sono raccolti nel nostro progetto, sono bassissimi, diciamo, non comportano problemi. Siamo andati poi a verificare anche nell'altra antenna, quella situata nella zona rurale, come dicevo, e là invece sono significativi, quindi lo spostamento è stata una buona cosa, insomma. E gli alunni che tipo di reazione hanno avuto a questo progetto? Beh, sai, dopo l'insegnante dice sempre positiva. comunque vabbè, poi chiederemo a loro. Esatto, forse questa è anche quando l'insegnante si è allontanato. Vabbè, allora. Per certezza. Comunque mi sembra che sia stata positiva l'esperienza. E allora sentiamoli gli studenti di Parolini di Bassano, Cristiano e Michele. Beh, per me è stata un'esperienza interessantissima che mi ha reso più attento e sensibile verso le tematiche ambientali, perché ne abbiamo a che fare tutti i giorni e non possiamo ignorarle. Ignorarle, esatto. Quanto tempo hai dedicato a questa ricerca, poi all'elaborazione dei dati, anche piuttosto complessi, mi è sembrato di capire? Sì, ho dedicato molto tempo in classe e anche individualmente a casa per studiare appunto questo progetto. Mi ha portato via parecchio tempo, ma non mi è dispiaciuto affatto. Che cosa hai imparato dall'esperienza, insomma, da mesi passati a studiare queste cose? Questa esperienza, cioè, innanzitutto ho imparato come utilizzare il telefono, anche perché io lo utilizzavo molto spesso, in maniera esagerata forse. Questa esperienza mi ha aiutato a utilizzare strumenti per diminuire le onde elettromagnetiche attraverso l'auricolare naturalmente, oppure viva voce, cose che ti aiutano a ridurre queste emissioni sul proprio corpo in fin dei conti. È tutto, grazie a Paola Anania per averci dato una mano a realizzare questa puntata. Ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12:45.